Siamo qui on air dal Brancaleone come tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Questo è Jolly Roger, questa è la nostra decima puntata. Un programma che è nato così piano piano, sempre dal basso, come le nostre aspettative, ma questo non vuol dire che non sia un programma che debba crescere. Jolly Roger, come dicevo poco fa, decima puntata, festeggiamo ricordando con la prima traccia, soprattutto scelta da Matteo, quella che è stato il nostro percorso. Iniziamo con la nostra scelta musicale. Il tuo palazzo sembra una città tra le urla, non sento più la tua aggressività che mi culla. E da ieri che sei in piedi col mio whisky e non mi vedi tre problemi che... Primo pezzo per noi. La pioggia come la prima volta a cantarti nel blu, dipinto di blu, era la canzone nostra. E sono in bilico fra impazzire e morire, perché lo sai che finirà con un vento fortissimo tra scappare o restare. Io cederò sotto il freddo dall'alba al tramonto. Fine, ciò che unisce più sottile, vedi che il filo si spezza, diventa una gara. E torniamo in diretta sempre qui dal Brancaleone. Salutiamo le signore del gas che come sempre condividono con noi lo spazio del Brancaleone. Intanto nel frattempo è passato anche Lugone a trovarci, come sempre, ormai un ospite fisso. Salutiamo Federica, un'amica di Matteo, e ora iniziamo con la nostra rubrica. Eccoci qua, partiamo subito a cannone, partiamo con i pronostici di Matteo. E l'Ant Bologna vince la Lazio, poi Vigen, Inter vince il Napoli, poi la Toro Roma vince il Sassuolo, Roma, Ok, torniamo sempre qui in diretta e proseguiamo la nostra scelta musicale. Questa volta, visto che ci è venuto a trovare Luca, partiamo subito così e poi con la scelta musicale di Matteo. Di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara. È arrivato Lugone e la sua romanità. Te che te non ci sei, nuda come a Roma ed è così che ti vorrei. Che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta, Roma ama e non perdona, Roma derivora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta, Roma ama e non perdona, Roma derivora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Levante, ponente, maestrale, scirocco, le rose, i venti, le spine, un rintocco, mi blocco, tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi capitale, sembra di affogare, nel bianco e nero, un ricordo che non m'appartiene, in mezzo a canti di sirene, fredde come iene, dove sete di vendetta, veste sete su misura, Roma benedetta, a volte Cristo, a volte Giuda, Roma barbara e cultura, DNA complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso, triste come un tango, tra l'oro e il fango. Roma è un passo a due volteggiando sull'asfalto. Roma è un volto stanco di Madonna con le lacrime, gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera. Roma, mani infami dentro l'acqua santiera. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta, Roma ama e non perdona, Roma derivora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta, Roma ama e non perdona, Roma ti divora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. E torniamo in diretta qui dal Brancaleone, anche perché Roma è anche Brancaleone. Proseguiamo con i pronostici di Matteo. Sono rimaste due partite in ballo e poi la sua scelta musicale. Milan Roma vince Milan, l'altra Juve no, l'altra Juventus vince la Juventus. Ha detto che vince la Juventus, vabbè, pure un po' della Lazio, quindi perdoniamolo per questa puntata. Dalla prossima iniziamo un po' a raddrizzarlo, nel senso buono. E noi proseguiamo con la scelta musicale di Matteo. Questi sono stati i pronostici. Noi chiaramente invitiamo tutti quelli che scommettono e che magari riescano a vincere a passare qui a Brancalone per offrire una ricca merenda. E proseguiamo la scelta musicale con il pezzo di Matteo. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Lo do con i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera. Sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia e ti vorrei rubare. E torniamo in diretta sempre qui dal Brancaleone. Questa, come dicevamo inizio puntata, è la nostra 10ª puntata. Ancora ci ricordiamo, venendo col pulmino, ci sono venuti in mente un po' di flash di quando siamo iniziati a venire le prime volte qui al Brancaleone, e in cui abbiamo iniziato a preparare piano piano quelle che sono state le puntate, e quella che piano piano sta diventando sempre una realtà spettacolare e soprattutto che, a cui i ragazzi partecipano sempre entusiasti. E proseguiamo così. Come i cani che si annusano, oh no, oppure i gatti che girano al porto, negli occhi è rock and roll, ai ai ai, sembra ti tocchino, oh my god, città per camino, donne pericolose, l'amore è un overdose, 150 dosi, oh sì sì, fanculo e Rolling Stone. Zucchero e lampone, oh, sì, mi ingoia come un po', oh. Lei dice come ho, sì, e poi mi spoglia come un ladro, no. Le tratto bene se non si innamorano, ah, ah, più tardi in camera. sera presto, presto. È come fosse domenica. Sì, domani poi vedrò come no. È come fosse domenica. Domenica. È come fosse domenica. Domenica. Oh no, no. E anche Jolly Roger sembra di stare a domenica. Non rispondono. Esco dal bagno con tre figli e moglie. E mamma guarda come dondolo. Ho un brutto voto dopo il compito. Ah, ah, la sposo come no. Le voglio bene ma mi do per morto. Ah, ah, ah, sta vita un roller coaster. Romanzo rosa, no, piuttosto un porno. Oh, è come fosse domenica. Bevi ancora presto, presto. È come fosse domenica. Sì, domani poi vedrò come no. È come fosse domenica. Domenica. È come fosse domenica. Domenica. Oh no, no. Torniamo in diretta dal Brancaleone. Passiamo ora il mic al nostro amico Luca, che finalmente è ritornato anche dopo qualche stop dovuto a quarantene e compagnia bella. Passo subito il mic. Ciao a tutti, oggi parlerò del Brancaleone. Ci ospita, qui potete trovare tanta gente simpatica e gentile. Presentano libri, fanno mostre, concerti. Potete ballare con la discoteca, la sala per registrare, c'è la sala studio, potete comprare frutta e verdura freschissima a un ottimo prezzo, potete comprare anche le uova. Potete farmi fare ottimi aperitivi o mangiare un ottimo cibo cucinato dai signori. E ci sono le belle giornate, si può stare in compagnia nel bel giardino e grazie a loro noi possiamo andare in onda con la nostra radio Jolly Roger. Qui è come stare in una bella famiglia. Torniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Ora ripasso il mic all'amico Luca. Lo sai che cosa ha detto Gesù prima di uscire dalla pancia di sua madre? No, Maria, io esco. Lo sai come si rompe un orologiaio? Col pendolo. Lo sai qual è il contrario di Bruno Mars? No, biondo Twix. Lo sai perché? Lo sai perché il vento è contento? Perché si tromba d'aria. E proseguiamo la scelta fatta da... Intanto introduciamo Alice che ha scelto un pezzo e iniziamo così. Saluto gli amici della Sardegna, soprattutto della provincia di Sant'Ioco. Volevo accennare brevemente, soprattutto facendo un saluto agli amici del gruppo Prendas, che è un'iniziativa, un progetto di cui magari parleremo le prossime settimane. Un progetto molto interessante che riguarda soprattutto la parte femminile. Siccome noi di Jolly Roger siamo un progetto sociale e appoggiamo tutte le iniziative e tutti i progetti sociali, in questo caso soprattutto perché lontani da Roma, a breve presenteremo quella che è la loro storia, quello che è il loro progetto. Intanto proseguiamo la scelta musicale e salutiamo tutti gli amici sardi e tutte le amiche sarde. Thank you. Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto. Perché Jolly Roger rispetta tutte le donne, rispetta soprattutto e ripudia tutte le forme di violenza. Sei tu il mondo che passa attraverso i miei occhi, e sei tu che mi inietti nel sangue il destino e accompagni i miei passi come fossi un bambino. Sei la cosa più bella che ho sempre difeso e hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso. Che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno mentre provi a vagare fra te e chi sta intorno. Mi hai visto credere in me e poi non crederci più, ma l'insistenza di esistere appesi ad un filo sottile. Sei tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi. Sei tu il mondo che passa attraverso i miei occhi. Oggi è un giorno per credere in te. Oggi lasciami senza parole. Voglio vivere i sogni che ho fatto anche se hai deciso di essere altrove. Oggi è un giorno per credere in te. Oggi lasciami senza parole. Prendi ancora se vuoi la mia rabbia in affitto, la distanza fra un uomo che ha vinto ed un uomo sconfitto. Sei tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi. Sei tu il mondo che passa attraverso i miei occhi. Sei tu. Che passa attraverso i miei occhi, sei tu. E torniamo in diretta, torniamo qui allo studio in Brancaleone. E ora, visto che si parla di donne, visto che siamo in attesa che intervenga Alice al MIC, noi alla maniera nostra facciamo una dedica a tutte le donne, agli occhi verdi, agli occhi marroni, agli occhi che hanno l'amore. Camminavo nella notte, oramai non dormo più. Quando ho incontrato una ragazza che era sola come me, yeah. Aveva il viso di un bambino, aveva tutto e sai perché. Tutti gli innamorati, visto che siamo vicini a San Valentino. Abbiamo girato per le strade come rondini perdute. Oh, yeah, yeah. Abbiamo vissuto mille anni nello spazio di due ore. Quando il mattino ci ha svegliati, senza parlare l'ho baciata. Oh yeah. Aveva gli occhi dell'amore verdi e l'ho baciata perché amo lei. Aveva gli occhi dell'amore verdi, mi innamorai di lei, mi innamorai. Lady May. di occhi verdi e di occhi castani ne abbiamo tanti in qua in studio. E da battutaccia da Sanremo a San Valentino è un attimo, e ora, visto che ci siamo, passo il mic ad Alice e la nostra Occhi Belli. Ciao Alice. Ciao. Oggi Alice voleva parlare della potatura degli alberi. Perché sotto casa tua che cosa hanno fatto, Ali? Perché sotto casa mia hanno tagliato tanti alberi e hanno tagliato molto bene, hanno potuto anche spazzare, hanno spazzato le foglie, hanno perché sotto casa mia spesso ci sono questi frutti sotto dentro dagli alberi, però crescono sulle macchine. Io vi voglio ringraziare per quello che avete detto e che comunque avete pulito molto bene sotto casa mia. Vi ringrazio che per il vostro lavoro e che state continuando a fare questo lavoro. Però vi voglio dire anche una cosa, voi e i vostri amici dovete anche far capire bene che comunque quando bisogna tagliare gli alberi potete anche mandare altri camion, perché sennò non ci sa nessuno che sta insieme a voi. Se qualcuno magari vi può aiutare è forse meglio, è la cosa migliore. Insomma, Alice, con Alice si è intrapresa questa che è la sua rubrica. Prima o poi troveremo anche una sigla per lei, gliel'ho promesso, visto che comunque con Matteo abbiamo una sigla, a breve ne troveremo una per Alice. E Alice è contenta perché poi sembra tutto fatto a caso, molti episodi di migliorie sono capitati proprio dopo che siamo intervenuti noi qui dalla nostra potente diretta. E ora iniziamo con la scelta musicale, il primo pezzo scelto da Alice. Lo vedi come sei, arrenditi stanotte, che non ci metteremo a tremare come foglie. Siamo stati mai liberi a volte, sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte. Ogni volta è così, ogni volta è normale, non c'è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane, non vuoi restare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli, e ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. Io per ho chiesto niente mai, una rosa da ricamare sopra ricordi, che ne sai, che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile. Ma con te ogni volta è così, ogni volta è normale, non c'è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane, non vuoi restare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli, ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente, e ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me. E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre, non so perché, ma ogni volta è così, ogni cosa al suo posto, non mi piovere addosso. Persi per strada un incrocio per un momento, metti che il cielo poi fosse il pavimento. Per me ogni volta è così facile, te lo ricordi che io per la parte delle tue mani non ci ho messo niente, e ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me, e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi e rieccoci qua. Proseguiamo con Alice che voleva dire le ultime cosette, e poi mandiamo un pezzo che ha scelto lei, che è anche un ricordo di una grande artista. Ciao a tutti, e oggi è la puntata numero 10 e sono felice di sapere che in tanti ci ascoltate. E allora, io voglio parlare, Elisa, ti saluto tantissimo, saluti me e Bastian, Sebastian, vero, si chiama, e comunque volevo, e Raffaella Carrà, e diciamo che ora ascolteremo... Diciamo che Elisa è molto brava come cantante, ma è più brava molto di te anche, e ti voglio dire questo. Tu Elisa sei molto più brava di Emma, ma io questo lo sapevo a Sanremo. E visto che ci siamo, lei ha scelto un pezzo chiaramente sempre di una figura femminile, che è Raffaella Carrà, e il pezzo è Pedro. Andiamo a ballare. Attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. E noi le stelle ve le facciamo vedere dal Brancaleone. Praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, fidati di me. E torniamo in diretta dal Brancaleone, abbiamo ricordato così alla maniera nostra la mitica Raffaella Carrà. Settimana scorsa abbiamo fatto un omaggio alla grande Monica Vitti e ora proseguiamo con un pezzo scelto da Lucone che è qua e che a breve ci saluterà, ma intanto iniziamo così. U2, Beautiful Day. Che giornate con Jolly Roger. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving. out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Torniamo in diretta da Brancaleone, siamo qua in compagnia del nostro amico Lucone. Questo era il primo pezzo scelto da lui. Sono bellissime giornate quando veniamo qui a Brancaleone, siamo pronti per la diretta di Jolly Roger. Visto che quando abbiamo iniziato, fai tante cose per ricordare proprio alcuni episodi. Era novembre, il mese penso più piovoso di tutto l'anno romano. Non c'è stato un giorno che non ha piovuto, ma nonostante la pioggia siamo venuti e abbiamo portato un po' di sole. Ora passo il mic a Lucone che vi va a salutare e poi prosegue la sua scelta musicale. Ciao Luco. Ciao Luco. Dai, eh. E questo è il pezzo che ha portato Luca, il secondo pezzo, un pezzo storico, perché Luca porta tanta, tanta roba. Battiato. Spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili.

fucking song. E noi torniamo in diretta per fare i saluti a tutti gli amici e a tutte le amiche che ci hanno ascoltato. Salutiamo la cooperativa Idea Prisma, salutiamo il Brancaleone, salutiamo soprattutto Pirate Radio, che ci permette di trasmettere un progetto che ogni giorno e ogni mese sta crescendo, quello di Pirate Radio e soprattutto quello di Jory Roger. A breve ci saranno un po' di news belle. Però chiudiamo con un pezzo, abbiamo iniziato con un pezzo di Subsonica e chiudiamo con un pezzo di Subsonica proprio per dedicarlo a tutti e tutte che si sbattono per i propri progetti, soprattutto radiofonici. Sosteniamo e supportiamo Radio Libere e Indipendenti. Diffido dell'etere plastico, forse piloto un destino romantico. Cerco un libero approccio ad un libero attracco, una libera radio fa parte di me. Sosteniamo e supportiamo più spazi sociali in tutte le città. Radio e sanzioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sessioni contagiano e con libere informazioni. Anche perché radio e sessioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Buonasera e buon weekend a tutti e tutti.